Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti. Oh, mi comunicano dalla redazione che un'ansa delle 12:18 di pochi minuti fa del presidente del Movimento per la Vita, di cui si parlava, dichiara l'intenzione: faremo fallire il referendum. Beh, tutto da vedere, no?